Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Oggi è giovedì e come ogni giovedì c'è un appuntamento immancabile e lo aspettiamo anche con un po' di ansia per scoprire che cosa ci racconta l'ADICO, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, rappresentata anche oggi dalla voce del presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi parliamo un po' ancora di dati, andiamo a vedere un po' di numeri che riguardano statisticamente quante persone si sono rivolte all'ADICO e per che cosa, e parliamo soprattutto della provincia di Padova? Sì, questa volta Francesco parliamo proprio di Padova, perché noi periodicamente facciamo sempre un po' anche un bilancio di quelli che sono un po' gli interventi che l'ADICO fa nelle varie province della regione in cui opera, e questa volta, come anticipato, tocca a Padova. Soprattutto se andiamo ad analizzare quelli che sono un po' i temi dominanti, ma soprattutto anche quello che riguarda un pochino i casi più incredibili che magari nel 2014 abbiamo trattato, anche comparando un po' i dati rispetto a quelli che sono nel 2013, anche per capire un pochino il trend in che direzione va. Ecco, e il trend da che parte va? Quali sono le richieste che vengono rivolte più all'ADICO? Innanzitutto, rispetto a quelli che sono un po' gli interventi che l'ADICO ha effettuato a Padova, dobbiamo dire che le segnalazioni e le richieste di intervento che l'ADICO ha effettuato appunto nella provincia sono state 498, quindi abbastanza significativo, considerato che noi abbiamo la sede a Venezia, e parliamo di interventi proprio mirati di persone della provincia di Padova che ci hanno contattato direttamente. Non parliamo di quelle che sono le tematiche di interesse generale, in cui invece ci siamo adoperati, ecco, ma certamente non nell'interesse del singolo, ma della collettività. Permesso questo, abbiamo notato come alla fine il problema delle bollette rimangono sempre un po' il cavallo di battaglia dell'ADICO, soprattutto considerato che su 498 casi 252 hanno riguardato proprio problemi di questo genere, con un aumento anche del 36% rispetto al 2013, quando gli utenti per i stessi problemi erano poco meno di 150. Quindi certamente un dato che è cresciuto, ma è cresciuto notevolmente, probabilmente anche per merito vostro e del lavoro di diffusione che facciamo, e anche per quello che è un po' il passaparola o l'iniziativa che l'ADICO nel 2014 ha fatto rispetto all'anno precedente. Mi sembra di capire che probabilmente le cartelle pazze ci sono sempre state, e non è che improvvisamente sono aumentate tra 2013 e 2014, che qualcuno si è rivolto di più a voi magari piuttosto che andare da un avvocato o chissà che. Beh, certo, rivolgersi all'ADICO c'è un interesse completamente diverso rispetto a quello che potrebbe essere il singolo avvocato, che certamente potrebbe risultare molto più oneroso e dispendioso per un cittadino. Vediamo che l'associazione offre servizi gratuiti ai propri iscritti e che presta opera nei loro riguardi e nell'interesse di salvaguardare un po' quelle che sono le principali tematiche, ma anche quelle che sono un attimino gli interessi di non far spendere soldi agli utenti che si rivolgono a noi e che in noi sperano di risolvere le proprie controversie. Innanzitutto, per dare qualche dato in più, giusto per rendere anche curiosa la nostra indagine, dobbiamo dire che nel 2014, quindi, c'è stata una preoccupante crescita dei distacchi inattesi ed improvvise. Quindi qua parliamo di persone che si sono trovate senza luce e senza gas e che magari devono attendere giorni per avere un ripristino o la rimozione dei sigilli. Poi dobbiamo dire che se parliamo di bollette pazze, dobbiamo capire che qua abbiamo più della metà dei casi che problemi di persone che si sono trovate con addebiti incredibili o non preventivati per effetto di fatturazioni errate o di conguagli inattesi, anche che rientrano negli ultimi 5 anni, anche per chi fosse in regola con il pagamento, e che ha creato non poche difficoltà per chi magari ha trovato bollette da migliaia di euro e pensava di essere in regola con il proprio fornitore. E poi abbiamo casi anche di problematiche sempre legate a questo argomento, di persone che appunto hanno avuto problemi, che magari è arrivato l'addebito prima rispetto all'invio della documentazione cartacea, quindi ha sconfinato con il conto e ha andato in negativo rispetto a quelle che sono le problematiche poi che le banche creano, e tutta un'altra serie di problematiche che riguardano sempre le bollette, che hanno a che fare anche con magari bollette che non arrivavano, oppure problemi di subentro di un gestore rispetto all'altro, oppure tanti altri problemi che magari poi nello specifico hanno reso anche l'intervento abbastanza, diciamo tra virgolette, divertente per come un po' si articolava, come nel caso di un signore che ha avuto una bolletta, un conguaglio di 60.000 euro che ha veramente rischiato un malore. Questi per quanto riguarda le problematiche delle bollette, che come detto occupano circa la metà dei nostri interventi. Altri poi ci sono stati interventi trattati dai nostri sportelli, vedi quelli che insomma hanno a che fare con le vacanze rovinate, con Equitalia, con il tiro delle patenti per abuso d'alcol, per problemi anche di sanità per chi ha avuto qualche problema per le cure che ha ricevuto, e tanti altri legati a quelli che sono un po' di denominazione speciale, che si articolano nei confronti dei meno abbienti o dei disagiati, quali può essere l'amministratore di sostegno, problemi di successione, di eredità, problemi di separazioni, che è l'ultimo sportello che l'Adico ha attivato e che ha trattato alcuni casi alla fine del 2014, in virtù della nuova legge appena approvata, e poi anche quello che insomma un po' riguarda tutta la sfera del gratuito patrocinio, o per quelle famiglie che insomma non sono nella condizione agiata di poter far valere la propria ragione. E da ultimo ricordiamo anche il problema legato ai condomini e agli sfratti, che abbiamo uno sportello che lavora moltissimo proprio per affrontare tutte quelle problematiche che entrano in questa sfera e che riguardano sia i proprietari di condominio o di appartamenti, che poi anche quelli che invece ricevono lo sfratto. Quindi da tutte e due le parti fornite assistenza. Mi sembra che la burocrazia, comunque i problemi di burocrazia, siano quelli che vanno più a coinvolgere le persone e conseguentemente anche voi dell'Adico. Sì, perché poi scopriamo che molti problemi di cui gli utenti si trovano vittime diventano per noi uno stimolo per promuovere nuovi sportelli, nuove iniziative. Pensiamo per esempio alle penultime, come abbiamo detto, quello dedicato alla separazione e divorzio consensuale, al penultimo, come può essere stato quello legato alle successioni e testamento, o sempre a quello per esempio dedicato agli amministratori di sostegno, il caso tipico della persona che c'è l'anziano in ospedale o a casa, che non è più benché è autosufficiente, ma non riesce più ad andare in posta o in banca per disbrigare le sue pratiche, e si trovano improvvisamente nella necessità di nominare un amministratore per poter portare avanti il normale disbrigo burocratico, come detto. In quel momento là non sanno neanche dove andare o non sanno come brancolare, e il ruolo dell'Adico è quello che oggi vuole cercare di affrontare tutte le tematiche che la vita può proporre e offrire un servizio completo per i soci che intendono rivolgersi a noi. Associazione Difesa Consumatori.it, il sito da andare a vedere, e poi anche su Blu Radio Veneto trovate i link, la possibilità di riascoltare tutte le puntate dell'Adico. Grazie al presidente Carlo Garofolini, ci risentiamo la settimana prossima. Grazie a te Francesco, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.